Mi erano sfuggite la settimana scorsa le dichiarazioni rilasciate da Roberto Formigoni, presidente della regione Lombardia, a proposito di una manifestazione che la Lega Nord aveva in progetto di effettuare e suppongo avrà effettuato contro la decisione di rendere possibile a Lodi, mi sembra, o forse a Milano, la costruzione di una moschea. E sono riportate su Repubblica del 7 ottobre scorso e mi sembra meritano di essere più diffuse di quanto siano state finora. E Formigoni, in sostanza, ha detto di essere d'accordo con quanto sostenuto a suo tempo dal cardinale Biffi, quello per cui bisogna difendere l'identità cristiana dei nostri paesi contro la montante marea islamica. Lo ha detto naturalmente con una certa qual dose di ipocrisia oratoriale, inserendo il discorso in un appello per la difesa di quella libertà religiosa che a suo dire l'Occidente e il nostro governo devono difendere a tutte le latitudini. E se questo interesse per la libertà religiosa da parte del noto integralista come lui può sembrarvi strano, non ci vuole poi molto per scoprire il trucco. Siccome ci sono dei paesi islamici integralisti nei quali è fatto divieto, pena sanzioni severe, di praticare religioni diverse, ne consegue per Formigoni che è giusto porre il tema della reciprocità. E la conclusione sottintesa, ma tutt'altro che difficile da divinare, è quella per cui, visto che in Arabia Saudita, in Sudan e altrove non è lecito costruire né frequentare edifici di culto cristiani, non si vede perché permettere l'edificazione di una moschea in Lombardia. Il Pio Roberto notoriamente è ciellino, per cui è normale che in tema di libertà religiosa abbia delle idee un po' discutibili. Non è questo il problema. Il problema è che certe cose le può dire benissimo il cardinale Biffi, che è vescovo principe di una chiesa che ha da poco elevato agli altari quel papa che ha condannato in forma solenne l'idea che la libertà di religione potesse riguardare anche gli altri. Ma non può dirlo, ahimè, il presidente della regione Lombardia. La regione Lombardia non si scappa, fino a prova contraria non è una teocrazia, è un istituto democratico sia pure alquanto imperfetto, e le regole della democrazia sia pure imperfetta non comprendono, per quanto possa sembrare strano, il principio di reciprocità. Vedete, se i diritti civili fossero per così dire un bonus elargito ai singoli dal governo, il principio del io ti do qualcosa a te e tu mi dai qualcosa a me potrebbe avere una sia pur rozza validità. Ma per quanto il concetto per certa gente sia difficile da afferrare, la situazione non è proprio così. In democrazia dei diritti sono titolari tutti gli uomini in quanto tali. E di questa titolarità nessuno, ripeto, nessuno, può essere deprivato. Certi stati naturalmente non se ne curano e certi altri tendono a riservarne il godimento ai propri cittadini, escludendone gli altri, ma questo in termini di principio non conta niente. Non per niente la Costituzione della nostra Repubblica, di cui nessuno finora ha sospeso la validità in Lombardia, riconosce e garantisce all'articolo 2 i diritti inviolabili dell'uomo tout court. A un certo genere di cattolici, mica tutti per fortuna, l'idea sta un poco sul gozzo, perché questi principi alla fin fine sono stati affermati in polemica in lotta con la Chiesa, ma anche loro, se vogliono partecipare alla vita politica di uno Stato moderno, mi spiace, ma devono accettarli. Ho tolto collo, ma devono accettarli. Tutto ciò probabilmente al Pio Formigoni non interessa affatto. Lui con certi principi ha scarsa frequentazione e soprattutto con quello di coerenza. Venera il Papa di cui sopra, quello del sillabo, della condanna del liberalismo, e venera anche Berlusconi, che del liberalismo a torto o ragione si considera il massimo interprete contemporaneo. E poi ha in maggioranza quelli della Lega e deve subire le loro cazzate senza protestare, consolandosi probabilmente con la considerazione che quella di sopportare pazientemente le persone moleste è dopo tutto una delle opere di misericordia corporale. Ma visto che la democrazia liberale, cui sia pur contro voglia soggiace, comprende oltre alla libertà di fare i danè anche la libertà di coscienza, in cui è inclusa fino a prova contraria il diritto di costruire moschee, anche lui dovrebbe decidersi a scegliere: o fa il presidente della regione, e come tale i principi del cardinale Biffi se li può scordare, o si dedica alla difesa dell'identità religiosa del paese, che è suo diritto, ma in questo caso è pregato di lasciare la presidenza a qualcun altro e con cortese sollecitudine, grazie. Il potere, ahimè, non è più assoluto, chi lo esercita ha certi doveri a cui è obbligatorio attenersi, anche questo dopo tutto è un problema di reciprocità.